2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 4 ottobre 2008. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per riascoltare 2024 quando preferite, soprattutto dove preferite, sullo strumento che preferite, sul vostro lettore di file MP3 oppure sul vostro computer o sui mille altri strumenti che permettono di ascoltare file MP3, non ultimi i telefonini di nuova generazione. Ormai moltissimi sono dotati di questa tecnologia, quindi è possibile anche downloadare direttamente il nostro file MP3 sul telefonino e riascoltarlo sul telefonino. La prima notizia che vorrei darvi questa settimana è che oggi, il 4 di ottobre 2008, Radio 24 compie 9 anni. Quindi siamo contenti di questo risultato e naturalmente anche 2024 compie 9 anni. La seconda notizia è che da pochi giorni esiste in Italia un'offerta WiMAX, potremmo definirla una data storica. La lanciata Linkem, ma nelle prossime settimane arriveranno anche le altre offerte, le prossime saranno quelle di Aria. Linkem ha lanciato il servizio in due province italiane, al nord e al sud, ne parleremo tra poco, sono ancora aree molto limitate, ma comunque esiste un'offerta commerciale, quindi abbiamo anche alcuni riferimenti di prezzi. Oggi parleremo anche del nuovo telefono lanciato da Nokia, nome in codice Tube, molto bello, poi trasformato in un nome di quelli classici un po' burocratici, con una presentazione che in settimana ha deluso molti esperti e anche molti giornalisti. Da mesi eravamo in attesa della risposta di Nokia all'iPhone di Apple. Beh, ammesso che fosse necessaria una risposta, ma questa era un po' l'intenzione che era stata presa, la direzione che era stata presa dai vertici di Nokia, quasi terrorizzati dall'arrivo del sistema touchscreen di Apple. Bene, il Tube è stato presentato, per quanto riguarda la tecnologia touch nulla di rivoluzionario, nulla di interessante. Sotto questo punto di vista Apple è forse uno o due anni avanti rispetto agli altri. Finora nessuno, né Samsung, né LG, né HTC, nemmeno gli altri, insomma i produttori che hanno presentato soluzioni touch, e naturalmente nemmeno Nokia, nessuno ha offerto sistemi touchscreen migliori di Apple. Forse però il problema è che non c'è così tanto bisogno di touchscreen, la gente non desidera il touchscreen così come molte società pensano. Ma di questo parleremo tra poco, parleremo anche di RFID, tecnologia che si sta diffondendo sempre di più, faremo il punto della situazione in questa puntata di 2024. Adesso parliamo di WiMAX, il sistema che molti chiamano alternativo per connettersi ad internet, alternativo alla DSL, ma vedremo che in alcuni casi non è solo un'alternativa nelle zone cosiddette in digital divide, ma è anche un'alternativa per alcune particolarità, alcuni vantaggi rispetto al cavo. Saluto Andrea Lo Savio, che è responsabile marketing e direttore finanze di Linkem. Benvenuto a 2024. Grazie a voi. Voi avete partecipato con altre aziende alla gara per assegnare le frequenze del WiMAX in Italia. Siete stati tra quelli che avete investito più soldi. Quanti ne avete investiti? Abbiamo investito oltre 34 milioni per assicurarci la copertura di 13 regioni italiane che ci permetteranno di coprire circa l'80% della popolazione. Quindi questo è solo per acquisire la licenza. Esattamente. Poi esistono tutta una serie di investimenti per costruire il network, la rete. A proposito di network, diciamo innanzitutto che il segnale WiMAX è stato acceso definitivamente con un'offerta commerciale di cui parleremo tra poco in due province. Dove? Sì, la provincia di Brescia e la provincia di Bari. Ecco, dicevo che si tratta di un network grosso modo, ma spieghiamo anche quali sono le differenze, simile alla rete di telefonia cellulare. Ci sono proprio delle antenne che coprono aree definite. Esattamente, la rete WiMAX appunto è una rete basata su antenne che noi installiamo appunto su tutto il territorio italiano, andando a coprire le aree dove vogliamo appunto offrire il nostro servizio. Prevediamo a regime di arrivare a circa 3.000 antenne. 3.000 antenne, stiamo parlando di un servizio senza fili per collegarsi ad internet prevalentemente, poi naturalmente ci si possono fare tante cose, una volta che ci si collega ad internet si possono offrire anche servizi di telefonia, perché immagino che questo sia un altro dei servizi che verrà offerto. Grosso modo, un'antenna che tipo di copertura ha? Dipende dall'ambito in cui la installiamo. In aree urbane il raggio di copertura è abbastanza ridotto, siamo sotto il chilometro. In aree invece extraurbane, man mano che si va verso le aree rurali, la copertura aumenta e si arriva anche nell'ordine dei 4 o 6 chilometri. A proposito di aree di copertura, queste sono le prime due province. Dal 1° di ottobre esiste il servizio appunto in alcuni comuni, in alcune zone di Brescia e in alcune aree della provincia di Bari. Qual è il progetto, il programma di copertura delle 13 regioni che voi avete all'interno della vostra licenza? Bene, siamo partiti da Brescia e da Bari sia per motivi un po' affettivi, infatti noi siamo a Brescia presenti con altri nostri servizi su altre tecnologie e a Bari abbiamo comunque degli accordi commerciali con un player importante come Telebari. Siamo partiti da queste due città che contiamo appunto di coprire sempre di più nei prossimi mesi. In realtà il piano per il 2008 prevede di andare appunto a offrire il nostro servizio in diverse province, che saranno la provincia di Brescia, quella di Bari, dove appunto già abbiamo iniziato, poi adesso a brevissimo, nelle prossime settimane, partiremo a Latina e poi in altre aree. Abbiamo identificato sicuramente quelle di Crotone, piuttosto che alcune province della Lombardia, ad esempio Lodi, e alcune altre del Veneto. Sembra strano che non abbiamo ancora chiarissimo dove saremo nel 2008, in realtà questo è un qualcosa che va chiarito. Per installare ognuna delle nostre antenne noi abbiamo bisogno di ottenere, come giusto che sia, delle autorizzazioni sia dal comune in cui installiamo, sia dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Parliamo sempre di radiofrequenza, quindi vogliamo essere sicuri di non fare danno a nessuno. Quindi in realtà il nostro piano naturalmente di sviluppo è anche influenzato dalla velocità con cui man mano otteniamo questi permessi. Dunque, voi installerete o comunque state installando antenne in aree dove non esiste la DSL o in quelle aree esiste comunque la DSL e WiMAX è in alternativa? Ecco, ti ringrazio molto di questa domanda perché è una domanda che si fanno in molti. Esattamente, ma purtroppo la risposta che è stata data fino ad oggi a noi non piace tanto. Crediamo che ci sia un tentativo di ghettizzarci nella riserva indiana delle aree digital divide, quindi considerare il WiMAX solo una tecnologia in qualche modo che può avere successo solo nelle aree in cui non ha concorrenza. In realtà noi non crediamo che sia così, tanto è vero che abbiamo lanciato il nostro servizio in due aree come Brescia e Bari, che sono assolutamente copertissime da tante altre tecnologie. Tu sai, la Puglia è una delle regioni più cablate d'Italia, quindi abbiamo proprio voluto affrontare da subito questo equivoco. Se posso dire una parola su questo, in realtà il WiMAX ha dei vantaggi nella concessione della tecnologia che fanno sì che l'installazione della rete sia economicamente efficiente. Quindi noi riusciamo ad andare in aree dove per altri non è opportuno andare, e quindi appunto per questo riusciamo a coprire l'area digital divide, ma grazie a queste economie possiamo offrire un servizio assolutamente di gradimento del cliente anche in aree dove c'è una grossa concorrenza, e a quel punto andiamo appunto a scontrarci sulle performance e soprattutto sul prezzo, perché noi ribaltiamo parte di queste economie sul cliente. Sì. Senti, prima di parlare dei vantaggi della tecnologia, ce n'è uno in modo particolare che a me piace ricordare, che è quella del nomadismo, del roaming che si può fare con le offerte WiMAX. Prima però parliamo delle offerte e soprattutto vorrei capire qual è l'esperienza che il cliente ha. Questo è un servizio alternativo ad altre tecnologie per collegarsi ad internet, quindi io chiamo oppure vado sul sito internet di una società come la vostra che offre questo tipo di servizio, e così come mi abbono a un servizio di telefonia mobile, a un servizio di telefonia o una DSL, io mi abbono al vostro servizio. Tecnicamente come funziona? Di che apparati ho bisogno? Ha bisogno solo di un modem. Il modem può essere appunto un modem da casa che si attacca alla presa di corrente elettrica, per capirci, è praticamente come quello a DSL, semplicemente che funziona grazie a onde radio, quindi non ha bisogno di un collegamento. Cioè un'antenna e riceve. Esattamente. E trasmette. Esattamente. Perfetto. Oppure una schedina da computer, anche questa permette invece di collegarsi con un portatile anche in movimento. Quindi l'esperienza delle più semplici: il cliente stipula un abbonamento con noi, gli inviamo gratuitamente a casa il dispositivo che lui sceglie. Lui può scegliere se avere, lui o lei, se avere un modem o avere la carta per il portatile. La spediamo gratuitamente e a quel punto basta semplicemente accendere, attaccare al computer e si inizia a navigare e a parlare al telefono. Molti si domanderanno, e io mi domando, ma io lo so già, quanto costa? Poco. Costa. Abbiamo tre profili di offerte. Innanzitutto abbiamo fatto una scelta abbastanza radicale rispetto al mondo delle telecomunicazioni, così complicato e con così tante sorprese, spesso poco piacevoli. In realtà abbiamo fatto una scelta di chiarezza. Abbiamo tre profili con i prezzi che sono 20 euro per una connessione a internet a 7 megabit al secondo senza limiti di tempo e di traffico, una tariffa a 30 euro che in più aggiunge chiamate nazionali, quindi urbane e interurbane, senza limiti di tempo e di traffico e soprattutto senza scatto alla risposta, con 45 euro si ha in più 3 ore di telefonate verso cellulari ancora senza scatto alla risposta. Dunque, a me preoccupa e mi interessa in modo particolare parlare dell'offerta internet pura, quindi diciamo che questa è un'alternativa alla classica DSL che grosso modo costa uguale, 19,90, insomma, attorno ai 20 euro, con un taglio simile, perché oramai le ADSL molto spesso sono a 7 megabit, col vantaggio di non avere l'abbonamento al telefono, che spesso uno ha. Dunque, dicevo che c'è un vantaggio che secondo me è molto interessante, che è quello del nomadismo. Se io ho la DSL e mi sposto in un ufficio, a casa di un amico o in qualsiasi altro luogo, devo trovare un'altra connessione. In questo caso, voi nelle aree di vostra copertura, ma sappiamo insomma che a regime fra 1, 2, 3 anni saranno l'80% del territorio, offrite, ma questo lo faranno immagino un po' tutti gli operatori, questo è un vantaggio della tecnologia, una sorta di roaming all'interno della rete. Spieghiamo come funziona. Assolutamente sì, il nostro cliente è un cliente italiano, quindi può comprare il nostro abbonamento a Brescia, spostarsi da Brescia in qualunque area coperta, non fa altro che portare con sé il modem da casa o semplicemente la schedina che sta dentro il computer e utilizza il nostro servizio in qualunque posto si trovi. Quindi per esempio può avere un collegamento a DSL e telefono a casa, in ufficio o nella casa a mare senza pagare 3 volte il canone. È semplicemente lo stesso servizio che si porta dietro. Verrebbe da dire è un po' come le offerte WiMAX 3G. Voi su questo punto che cosa rispondete? Ma la grossa differenza credo fra il WiMAX e il 3G sia nell'ambito delle performance. È vero che entrambi dichiariamo 7 megabit, io però sono abbastanza voi tranquillo. Voi dite fate la prova. Sì, esatto, sono abbastanza tranquillo nel dire che il WiMAX garantisce prestazioni sicuramente migliori perché è una tecnologia nata per internet. La rete è nata per internet, è stata progettata per internet, non è una rete nata per la voce che viene riutilizzata. Quindi proprio per questo motivo noi in realtà garantiamo una DSL che veramente ti porti dietro. Sì, a proposito della tecnologia, 7 megabit sono in downstream, cosiddetto, e in upload invece? Un megabit. Molti ascoltatori ci scrivono e ci chiedono come fare per sollecitare gli operatori tradizionali per portare la DSL in zone dove non esiste la DSL. Per quanto vi riguarda, qual è il minimo di clienti che richiedete per dire ok, in quella zona portiamo un'antenna delle nostre? Sì, un'antenna o diciamo l'installazione di un'antenna con tutti i costi connessi tecnici e commerciali si ripaga con un numero di clienti che oscilla a seconda di varie circostanze fra i 100 e i 150. Quindi quando un'antenna serve 100-150 clienti per noi è positiva sotto tutti i punti di vista, quindi è redditizia. Sì, quindi diciamo che un paese, un piccolo paese può essere interessante. Sì, se ti fai due calcoli considerando appunto il numero di famiglie rispetto al numero di abitanti e la penetrazione che si può pensare di avere, noi già con qualche migliaio di abitanti consideriamo il paese per noi sicuramente un target, a partire da 2-3 mila abitanti per noi il paese diventa un target. Stiamo parlando di WiMAX. È arrivata la prima offerta commerciale in Italia. Dal 1° di ottobre la offre l'Incam nelle province di Bari e di Brescia. È con noi Alessandro Lossavio, responsabile marketing di l'Incam, per parlare di questa novità molto attesa, soprattutto nelle zone dove non esiste l'ADSL. Purtroppo sono ancora molte in Italia. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi arriveranno anche offerte di altri operatori. Ricordo che sono 11 le aziende che si sono aggiudicate 35 licenze per tutto il territorio italiano. Alcuni hanno licenze regionali, altri, come ad esempio l'Incam, licenze nazionali. Dunque, Lossavio, sappiamo che oggi esistono oramai tutti i computer portatili dotati di tecnologia Wi-Fi e anche molti telefonini, molti smartphone di nuova generazione hanno la connessione Wi-Fi. Per quanto riguarda il WiMAX, sappiamo che sono in arrivo computer portatili dotati di questa tecnologia, di questa possibilità di connessione, e anche telefonini, smartphone. Da questo punto di vista, voi che notizie avete? Ottime. Sicuramente per noi questo cambia totalmente anche l'approccio al mercato. Pensa, non dobbiamo più andare a inseguire il cliente, semplicemente il cliente apre il computer e gli viene comunicato: sei in connessione LinkedIn, vuoi connetterti. Le notizie che ci dà Intel sono di un arrivo dei computer abilitati al WiMAX sulla nostra frequenza, quindi su 3,5, intorno alla seconda metà del 2009. Telefoni? E i telefoni, si parla dell'inizio del 2010, già esistono dei prototipi. Lì è anche un problema: in Europa si utilizza soprattutto una frequenza diversa dalla frequenza americana, quindi occorre pensare il prototipo e poi anche adattarlo da un punto di vista frequenziale, però si parla davvero di qualche mese. Ho citato il Wi-Fi, voi siete anche uno dei principali operatori in Italia del Wi-Fi. Esistono connessioni in qualche modo, collegamenti tra WiMAX e Wi-Fi? Sì, a parte un collegamento commerciale, nel senso che a tutti i nostri clienti noi diamo la possibilità di connettersi nei nostri oltre 600 hotspot gratuitamente. Quindi in realtà, dal punto di vista tecnico, noi crediamo che il Wi-Fi possa compiere il lavoro del WiMAX. Quindi in qualche modo il WiMAX ti consente di coprire una città, di portare a casa del cliente il segnale, poi il cliente può distribuirselo in ambito casalingo, magari con il Wi-Fi, come appunto uno dei nostri modem che noi mettiamo a disposizione è appunto un modem Wi-Fi che fa esattamente questo lavoro. Ti faccio un'ultima domanda relativa alle città dove il nomadismo, a cui facevamo riferimento prima, è molto frequente: gente che si sposta da un ufficio ad un altro, da casa all'ufficio, eccetera, eccetera. Quando arriverà, o comunque avete ipotizzato di coprire anche una grande città come Milano, Roma, eccetera, eccetera? Assolutamente sì, Roma e Milano arriveranno nel 2009, entrambe inizieranno a essere coperte nel 2009. Molto bene, io ringrazio Alessandro Lossavio per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Adesso noi cambiamo argomento, parliamo di telefonia mobile. Come vi ho annunciato all'inizio della nostra puntata, Nokia ha presentato in settimana un prodotto molto atteso. Da mesi si aspettavano notizie sul Tube, questo era il nome in codice di questo prodotto che molti attendevano come una risposta all'iPhone di Apple con tecnologia touchscreen. Beh, molti sono stati delusi dalla presentazione. Ne parliamo con Carolina Milanesi, collegata con noi da Londra, responsabile mondiale delle ricerche sulla telefonia mobile, sui telefonini, come si dicono in gergo, i devices, per Gartner. Bentornata a 2024. Grazie. Nokia ha svelato non solo un prodotto, ma un servizio collegato al mondo della musica che viene venduto assieme al prodotto. Cambia quindi, potremmo dire, anche la strategia di Nokia con l'arrivo di questo prodotto? È cambiato un po', diciamo, il tema principale del prodotto. Tutti ci aspettavamo il famoso Nokia Tube come risposta all'iPhone e tutta l'attenzione era intorno all'interfaccia, appunto, che usa il touchscreen. La realtà è stata invece che abbiamo avuto sì un prodotto con il touchscreen, ma molta dell'attenzione era stata dedicata proprio al discorso della musica, al servizio che viene lanciato con questo device. E come è molto brava la Nokia e lo fa da molto tempo adesso, ha un prodotto che ti offre un buon, diciamo, 360 gradi di prodotto, quindi dalla telecamera, dalla fotocamera al Wi-Fi, alla tecnologia 3G, alle mappe e via dicendo. Potremmo dire che in questo caso molti si aspettavano l'annuncio di un prodotto rivoluzionario, forse l'attenzione va posta sul servizio. Sì, credo che questa è proprio una constatazione vera, nel senso che l'interfaccia con il touch è semplicemente la solita interfaccia basata su Siri 60 che è stata adattata al touch, ma non c'è niente di rivoluzionario. Nokia ha detto che vuole transizionare i suoi utenti dalla vecchia interfaccia a questa nuova interfaccia di touch. La realtà, secondo noi, è che se avessero effettivamente creato un'interfaccia radicale ma molto intuitivo, come ha fatto Apple con l'iPhone, specialmente il target user che la Nokia ha, quindi dei giovani utenti, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a utilizzare la nuova interfaccia. Una domanda sulla strategia collegata al mondo della musica. Abbiamo già detto altre volte che Nokia sta cambiando un po' l'approccio che ha con il mercato, non solo telefoni ma soprattutto e sempre più servizi, l'abbiamo visto con le mappe, lo stiamo vedendo con la musica, e in questo caso il prodotto è strettamente collegato a un pacchetto di musica, tant'è che il servizio si chiama Comes with Music, quindi un prodotto che arriva nelle tasche dei clienti con la musica. Questo in termini concreti che cosa significa? Uno va e acquista, e che cosa acquista? Acquisti un pacchetto che ti dà nella scatola il tuo telefono e un codice che usi a collegarti sul Nokia Store, quindi il Nokia Music Store. Entri praticamente questo codice nelle apposite caselle e praticamente tutto il costo, i prezzi che tu vedi nel Nokia Music Store spariscono, e quindi hai tutta la libreria di musica a disposizione gratuitamente per un anno. Quindi per un anno tu puoi scaricare sul tuo telefono e su un PC tutta la musica che vuoi. Alla fine dell'anno o 18 mesi la musica è tua e il servizio finisce. Se tu vuoi continuare il servizio devi acquistare un nuovo telefono con Comes with Music. Quindi diciamo che è una buona idea per vendere telefoni, anche per vendere musica. Stiamo parlando di un telefono che si chiama Nokia 5800 Express Music, e da qui appunto la stretta connessione con il mondo della musica. Una delle critiche riguarda la disponibilità nel mondo, almeno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, dobbiamo aspettare la prossima primavera. Sì, il 5800 sarà solo presente in 7 paesi prima della fine dell'anno e in Europa solo in Spagna. Infatti è stato un po' curioso vedere l'annuncio del servizio Comes with Music solo in Inghilterra, ma l'arrivo del 5800 solo nell'anno nuovo. Il servizio al momento in Inghilterra viene lanciato con il 5310, che è un telefono che sono sicura molti degli utenti conosceranno perché è sul mercato da parecchio tempo, e anche con l'N95, anche se per questo secondo prodotto non si hanno ancora alcune informazioni sul prezzo. Esiste così tanto business nel mondo della musica, tanto da impegnarsi con prodotti e servizi così come sta facendo Nokia? Ma senz'altro la musica al momento è una delle applicazioni più ricercate dagli utenti, specialmente gli utenti giovani. Quello che noi vediamo da alcune ricerche che stiamo facendo sui consumatori è che però questi utenti non sono necessariamente disposti a pagare per la musica, quindi l'idea di avere un servizio che viene legato strettamente al telefono, quindi all'hardware, secondo me aiuta a giustificare un prezzo, quindi molti degli utenti vedranno il prezzo legato al telefono invece che non legato alla musica e saranno più propensi a sottoscrivere a questo servizio. Mi verrebbe da dire, una volta si compravano gli LP e poi si compravano i CD, oggi è necessario comprare un telefono per acquistare la musica. Per concludere, visto che molti hanno fatto un paragone con iPhone e con la strategia generale di Apple, visto che qua si parla di telefoni e di musica, mi sembra che il paragone con l'iPhone dal punto di vista touch sia in parte saltato, perché i prodotti sono effettivamente un po' diversi. Per quanto riguarda tutta la strategia relativa alla musica, è possibile fare un parallelo con l'iTunes, quindi il negozio dell'Apple, o stiamo parlando di cose un po' diverse? No, in teoria stanno senz'altro creando la stessa cosa, nel senso che dalla parte Apple hai o l'iPhone o l'iPod e hai iTunes, che sta creando questo ecosistema che tiene l'utente felice e contento in questo mondo di Apple. Nokia sta cercando di creare la stessa cosa con il Nokia Music Store e con i telefoni, e adesso comes with music. Se guardi ai sistemi, sono due sistemi che sono tutte e due abbastanza chiusi. Il fatto che Nokia ha addirittura solo un device e un PC, quando invece magari Apple ha 5 devices dove puoi ascoltare la musica che hai acquistato. Quindi ci sono, diciamo, delle similarità in tutte e due. Certo che la gamma di prodotti che la Apple ha, anche se c'è solo un iPhone, ma guardiamo alla range che hanno di iPod, è molto superiore a non i due telefoni, e il 5800 farà il terzo nel nuovo anno, che al momento ha la Nokia per Comes with Music. Quindi senz'altro la Nokia ha ancora tanta strada da fare. Io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi, grazie, e naturalmente buon lavoro, a presto. A presto, arrivederci. E noi ci fermiamo per qualche minuto, 2024 vi aspetta tra poco. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24, sempre in onda tra le 15.30 e le 16.30, questo è 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. E come sempre vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile su internet sul nostro sito www.radio24 per essere riascoltato in formato MP3. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, così da poter scaricare settimana dopo settimana e quindi aggiornare la nostra trasmissione automaticamente oppure anche manualmente e poterla poi riascoltarla quando preferite. Abbiamo parlato poco fa di telefonia mobile, del nuovo telefono presentato da Nokia questa settimana. A proposito di telefonini, dopo l'arrivo del G1, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, il primo telefono con sistema operativo Android, cioè un sistema sviluppato da Google all'interno di un'alleanza più vasta, ma fondamentalmente da Google, questa settimana Microsoft ha ribadito che non lancerà un suo telefonino e continuerà a fare pagare la licenza per l'uso del suo sistema operativo mobile, ovvero il Windows Mobile, quindi in controtendenza rispetto a Google e Nokia, che con Symbian vanno verso la gratuità. Secondo Strategy Analytics, Microsoft addebita da 8 a 15 dollari per telefonino. La quota di mercato di Microsoft nei sistemi operativi per smartphone è rimasta intorno al 10%. Un'altra notizia che riguarda Microsoft: l'azienda sta intensificando gli sforzi per migliorare la ricerca online, investendo in particolare in Europa. Dopo aver cercato di acquistare Yahoo, ricorderete insomma le lunghe trattative senza esito, Yahoo, ricordiamo, ha propri centri di ricerca in Europa, Microsoft non è riuscito ad acquistare Yahoo e quindi ha deciso di aprire una struttura con 3 centri ricerca: Parigi, Londra e Monaco. Potrebbe essere il G3 della tecnologia, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, manca l'Italia, che invece politicamente fa parte del G4, la versione più ridotta rispetto al G8. Ricordiamo che nel mondo della ricerca Microsoft ha una quota di circa il 2% nel mercato europeo, secondo quanto rilevata da Comscore, rispetto a quella di Google che è del 79%. Ci sono altre due notizie che arrivano dalla Gran Bretagna. Il governo di Londra ha annunciato di aver istituito una nuova autorità di vigilanza sul web per tutelare i bambini da siti su suicidi, bullismo e pornografia. Questa authority insegnerà ai bambini i possibili pericoli, prenderà di mira i siti illegali con contenuti dannosi e stabilirà un codice di condotta per i siti che permettono agli utenti di postare, quindi inviare e pubblicare propri videoclip o messaggi, ad esempio YouTube. L'autorità si chiamerà UK Council for Child Internet Safety e perseguirà anche i giochi violenti e promuoverà la pubblicità online responsabile. Sempre dalla Gran Bretagna arriva la notizia che la Nottingham Trent University ha deciso di dare vita a quello che ha definito il National Video Game Archive, un archivio nazionale del videogioco. Questa è una notizia interessante perché il mondo del videogioco viene spesso snobbato, invece l'intenzione di questo archivio è di creare un archivio storico e anche sociale del videogioco, proprio come una espressione dell'arte moderna. Un'ultima notizia arriva dalla Cina: un gruppo di attivisti per i diritti umani canadesi è riuscito a scoprire, a penetrare nei computer della polizia informatica cinese, scoprendo che gli utenti di Skype in Cina vengono spiati regolarmente. In Cina Skype opera in joint venture con una società che si chiama Tom, una società cinese. Ci sono parole chiave che bloccano i messaggi di testo. Sapete che Skype può essere utilizzato anche come sistema di messaggistica istantanea, quindi instant messenger. Ci sono i messaggi, appunto, ci sono alcune parole chiave che provocano il blocco del sistema, mentre quelli in voce video, i messaggi video e voce, vengono semplicemente registrati e archiviati. Tra queste parole ci sono Falun Gong, la setta religiosa messa fuori legge dal governo di Pechino, indipendenza di Taiwan, quindi se si scrive indipendenza di Taiwan il sistema si blocca, Partito Comunista Cinese, oppure anche democrazia, terremoto, latte, eccetera, eccetera. eBay, il sito di commercio online che è proprietario di Skype e quindi opera in joint venture con questa società cinese, ha espresso ai dirigenti di Tom la propria preoccupazione. Ma come spesso succede, le società americane per fare business in Cina si piegano alle richieste del governo e quindi, al di là di queste preoccupazioni, vedrete che poco cambierà. Vi do una notizia, molti di voi probabilmente sapranno già, che torna SMAO dal 15 al 18 ottobre a Milano, torna il salone dedicato alla business technology con un'ottica di servizio per le imprese, soprattutto le medie e piccole imprese che più hanno bisogno di essere guidate verso la tecnologia, a quella che appunto oggi viene chiamato business technology, la tecnologia al servizio del business. Quindi dal 15 al 18 ottobre. Vi annuncio anche che Radio 24 seguirà in modo particolare con uno SMAO virtuale alla radio i lavori della giornata, quindi in ogni giornata avrete un quadro di quello che succede durante SMAO, durante questa fiera. Abbiamo parlato per una breve presentazione di questo nuovo Salone 2008 con Pierantonio Macola, che è amministratore delegato di SMAO, intervistato da Andrea Silla. Partiamo dalla situazione di oggi: le fiere nel resto d'Italia sono un po' in crisi, SMAO si conferma e si conferma ad alto livello. Sì, diciamo che c'è un momento in cui il mercato sta facendo una forte selezione e di conseguenza assistiamo a alcuni prodotti fieristici che si sviluppano molto e diventano e si riaffermano come un punto di incontro indispensabile col mercato, ed altri che invece spariscono. E SMAO, indubbiamente alla sua 45esima edizione, oggi è l'appuntamento di riferimento per le tecnologie informatiche intese come soluzioni a supporto del business. Quali saranno le caratteristiche di questa edizione 2008, il format della Fiera 2008? Ma diciamo che noi, forse la novità più grande è che abbiamo da quest'anno un approccio al cliente, quindi noi raccontiamo ai nostri visitatori come possono usare le tecnologie però per migliorare il loro business. Assistiamo a uno scenario internazionale in cui è indispensabile competere, ci sono sfide importantissime, quindi questa manifestazione è una raccolta di casi di eccellenza in Italia che aiutino i vari manager e diciamo chi deve prendere decisioni a capire come usare le tecnologie nella maniera corretta. Parlando sempre di fiera, quali sono le tendenze, le curiosità che troveranno gli utenti nella Fiera 2008? Beh, la cosa forse più interessante è che la tecnologia diventa matura e quindi oggi non occorre più parlare un linguaggio tecnologico, occorre solo concentrarsi sui propri obiettivi all'interno dell'azienda o della pubblica amministrazione. Questo è un aspetto che rivoluziona anche proprio tutta la comunicazione, quindi parliamo sempre di risultati, di esempi pratici e tutto sommato la passione per le tecnologie rimane un po' sullo sfondo. Ecco, un'ultima cosa riguardo le aziende che verranno presentate e che esporranno in SMAU. È un periodo questo nel quale le aziende non si accontentano più di consolidare la loro posizione di mercato sui prodotti che le hanno rese famose, ma stanno sperimentando, pensiamo a Google per esempio, che sta sperimentando nuove strade per entrare in mercati, per esempio quello del telefono, oppure pensiamo a Apple che recentemente ha affrontato questo mercato. Insomma, in questo senso che cosa può portare SMAU 2008? Ma probabilmente la cosa più affascinante è l'area che noi chiamiamo il percorso di innovazione, in cui ospitiamo 80 start-up italiane, quindi sono casi di eccellenza in Italia, per i quali SMAU è una vetrina comunque internazionale, e quindi in quest'area, proprio anche fisicamente e visivamente, i visitatori troveranno soluzioni veramente di frontiera. Ecco. È però un ambito particolare, è quasi un'area di tendenza, è comunque indispensabile per farsi un'idea di dove sta andando questa industria. Bene, allora vi ricordo dalle 15 alle 18 ottobre SMAU a Milano. Tutte le informazioni, anche la possibilità di registrarsi all'evento, sono su www.smau.it. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, tra poco parleremo di nuovi devices, nuovi strumenti lanciati recentemente sul mercato italiano in anteprima mondiale. Strumenti per collegarsi ad internet e poi parleremo anche di RFID tra poco. Parliamo di Intel, che questa settimana ha presentato una soluzione basata sui nuovi processori Xeon 7400, 6 core, grande capacità di calcolo, una soluzione e un progetto che è stato realizzato assieme al Consorzio del Parmigiano Reggiano e al Centro Ricerche e Produzioni Animali. Sapete che nella filiera del Parmigiano Reggiano ci sono tantissimi controlli sulla qualità del latte in modo particolare, quindi tantissimi dati. Non sono gli unici dati che vengono raccolti, perché ci sono dati anche sulla qualità dei mangimi, su quello che mangiano le vacche, eccetera, eccetera. Beh, insomma, tantissimi dati che devono essere elaborati dal Centro Ricerche e Produzioni Animali, e Intel ha sperimentato in questo caso una nuova soluzione per processare tanti dati e quindi essere più veloce nella risposta che poi gli allevatori devono utilizzare per guardare alla qualità del proprio prodotto per produrre il parmigiano reggiano. Oltre a questa soluzione, recentemente Intel ha presentato assieme ad alcune aziende, ma in anteprima mondiale in Italia, il primo MID Mobile Internet Device. Ne abbiamo parlato circa un anno fa dicevamo che sarebbero arrivati questi prodotti. Beh, oggi esiste il primo prodotto in Italia, ne abbiamo parlato con Dario Bucci, amministratore delegato di Intel per l'Italia e la Svizzera. Beh, sempre di più si va nella direzione di computer che in qualche modo evolvono nella direzione del loro utilizzo e quindi si specializzano. Quindi non ci sono più computer per qualsiasi esigenza, ma per esempio chi vuole un'estrema mobilità però senza compromessi sulla capacità lavorativa, un oggetto tascabile in senso lato, ancora un po' grossino per essere messo in tasca, però è abbastanza leggero da poter essere sicuramente portato appresso, nasce l'esigenza di progettare questo MID. MID nasce intorno a un prodotto che si chiama Atom, che è un processore che sviluppa due caratteristiche fondamentali. La prima è di essere estremamente piccolo in termini di dimensioni. Per darvi un'idea, su una fetta di silicio, un wafer, ci stanno 470 processori Core 2 Duo, che sono i processori più diffusi in questo momento nei notebook tradizionali, mentre ce ne stanno 2500 di Atom, quindi l'oggetto è estremamente piccolo e quindi anche più aggressivo in termini di costo, quindi anche interessante da questo profilo. Dall'altra parte è un oggetto che ottimizza i consumi, ha un totale utilizzo di circa 2 watt, quindi è un oggetto molto parsimonioso che ben si adatta quindi a essere un oggetto portatile a batterie. Bene, nasce questa nuova famiglia di prodotti, Mobile Internet Devices, quindi MID, e abbiamo avuto il piacere di aver avuto il lancio praticamente mondiale con un operatore, Telecom Italia, la settimana scorsa, dove insieme a BenQ, che è un produttore di Taiwan, che è uno dei produttori che in qualche modo ha deciso di investire su questa tecnologia, abbiamo annunciato il prodotto disponibile in Italia attraverso la catena di distribuzione di Telecom Italia. Questo è un oggetto che nasce sia per il mondo consumer come un oggetto di intrattenimento, ovviamente è un oggetto che vive in una sua connessione continua con la rete, quindi non ha senso di parlare di questo oggetto senza internet, e dall'altra parte però ci sono aree di interesse ad utilizzare questo tipo di oggetto anche in applicazioni invece di tipo industriale o commerciale, perché è un oggetto molto piccolo che può essere appeso alla cintura, che consente comunque di avere una buona capacità lavorativa e una connessione a internet, può essere interessante per varie applicazioni anche nel mondo delle piccole e medie imprese italiane. Adesso parliamo della tecnologia RFID, tecnologia a radiofrequenza per l'identificazione dei prodotti, una tecnologia di cui si parla da tanto tempo, ne abbiamo parlato anche a 2024, un grande sviluppo è arrivato negli ultimi anni dall'adozione della tecnologia RFID passiva, quindi piccole antenne che avvicinate ad un lettore vengono caricate elettronicamente, elettromagneticamente, e quindi ricevono l'energia per comunicare una serie di dati. Ne abbiamo parlato, per fare il punto della situazione, ne abbiamo parlato con Ubaldo Montanari, che guida il gruppo di filiera TIA, tecnologie di identificazione automatica, all'interno di Asso Knowledge. Asso Knowledge è l'associazione italiana dell'education e del knowledge di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologiche, e rappresenta sia le imprese di formazione che delle risorse umane. All'interno di Asso Knowledge, come lei ha giustamente fatto notare, si sono unite una serie di aziende nazionali e multinazionali e hanno costituito questa filiera con lo scopo di divulgare un'informazione corretta e puntuale su questo tipo di tecnologia. L'RFID, in due parole, è sostanzialmente, per fare un'analogia che forse potrà aiutare i nostri radioascoltatori, è un codice a barre che tutti abbiamo visto che non si vede ma trasmette i suoi dati via radio. Ovvio, questa è una semplificazione, ma per fare capire che sostanzialmente utilizzando le onde radio noi possiamo leggere e scrivere dei dati all'interno di questi chip. Come lei ha detto, ci sono i tag attivi che sono stati un po' i precursori. La differenza fra tag attivo e passivo, per chi ovviamente non è del mestiere, è sostanzialmente che in un caso c'è una batteria, questo dall'attività dell'oggetto, i passivi invece vengono energizzati dal campo elettrico fatto dal lettore, per cui diciamo che hanno una vita teoricamente infinita, se vogliamo dire così. Ecco. Senta, fino a qualche anno fa si diceva, pensando al futuro dell'RFID, che questi strumenti sarebbero entrati nel giro di pochissimi anni in tutti i prodotti e li avremmo trovati al supermercato. In realtà le cose non stanno così, dopo qualche anno vediamo che la tecnologia si sta diffondendo, ma non con la rapidità che era stata preannunciata. Se volessimo fare il punto della situazione sull'Italia, ma poi in generale anche sull'Europa, perché non mi sembra che all'estero stiano succedendo cose molto diverse dal nostro territorio, ecco, dove viene utilizzata maggiormente la tecnologia e quali sono i limiti attuali? Beh, diciamo che sicuramente i prezzi sono sicuramente negli ultimi 4-5 anni calati in modo drastico. Come lei diceva giustamente, c'è stato probabilmente un eccesso di ottimismo in passato che si appunto faceva sì che molti prevedevano l'utilizzo addirittura, per fare il classico esempio, sul pacco di pasta o il pacco di biscotti. Diciamo che ancora oggi ci troviamo in una situazione di costo, diciamo, per quantità importanti, per importanti intendo sopra i milioni di pezzi, di alcuni milioni di pezzi di tag passivo, nell'ordine dei 10 centesimi di euro, e siamo ancora molto lontani dai previsti o stimati 5 centesimi di dollaro, e da qui, come vede, c'è una bella differenza, che si stimava attorno al 2002. Diciamo che la situazione è abbastanza simile in tutto il mondo. Diciamo che praticamente i paesi che fanno da padrone dal punto di vista della tecnologia, come sempre, sono i paesi, diciamo, anglosassoni in particolare, americano, anche il Giappone è piuttosto avanti, ma diciamo che noi non perdiamo in competitività, nel senso che poi siamo abbastanza bravi noi europei, noi italiani, a utilizzare questi prodotti fatti da terzi per poi integrarli nelle nostre applicazioni. Per cui di fatto ci troviamo in una situazione dove il mercato che è nato per primo, possiamo definire, è stato il mercato dell'automotive, che da oltre 20 anni usa questo tipo di tecnologia nelle linee di verniciatura, e si è via via diffuso nel manifatturiero, cioè in quelli che in gergo sono definiti circuiti chiusi, cioè dove un oggetto viene riutilizzato, per cui il suo costo iniziale tutto sommato non è così determinante, perché appunto viene ammortizzato per diversi cicli. Questo è il panorama odierno. Oggi, grazie al calo dei costi, si cominciano a vedere le prime applicazioni nel mondo del fashion, come dicevamo per esempio nel mondo degli immobilizer delle auto, ognuno di noi ha una chiave di questo genere e dentro c'è un tag, ecco, per esempio. Per cui al calare del prezzo ovviamente ha coinciso un incremento della diffusione, perché aumenta la penetrabilità di questa tipologia di tecnologia. Fino ad oggi una delle applicazioni che è stata maggiormente utilizzata è quella dei biglietti. Pensiamo agli abbonamenti, ai biglietti del bus oppure allo ski pass, ad esempio. In questo caso è molto semplice spiegare come funziona la tecnologia, perché questo chip con la sua antenna viene annegato all'interno di una tessera. Quando passiamo vicino al lettore, questo lettore dà energia al piccolo chip, il chip trasmette un codice, il lettore riconosce quel codice, magari se siamo su una pista da sci ci fa passare, o se siamo su un autobus ci dice tutto ok, il tuo abbonamento è ancora valido. Quali altre applicazioni, quindi ci faccia anche qualche esempio di applicazione che oggi viene utilizzata largamente o sulla quale si sta investendo molto? Sicuramente diciamo che la logistica è il campo, il mondo, il mercato dal quale ci si aspetta una grande esplosione, perché ovviamente, come dicevo prima, all'interno delle fabbriche, dei cicli produttivi, qualsiasi tecnologia che viene introdotta e adottata rimane all'interno, per cui non crea, diciamo, un circolo virtuoso anche all'esterno dell'azienda. Il fatto di arrivare a poter mettere il tag, diciamo taggare, questo brutto termine che abbiamo coniato noi del settore, i prodotti, fa sì che in tutte le fasi della distribuzione, dal produttore fino al centro distributivo, dal grossista fino al negozio, al punto vendita, questo è sicuramente uno degli aspetti con più alto valore aggiunto. Il fatto di arrivare a poter tracciare un prodotto fino dalla sua nascita fino alla sua morte. Tenga presente che oggi anche l'aspetto di tracciabilità e rintracciabilità è un aspetto molto sentito nel campo, per esempio, alimentare. Eh sì, l'argomento è senza dubbio estremamente interessante, per certi versi anche affascinante. Si parlerà di tecnologie RFID, e anche di mobilità, visto che le due cose sono connesse, a Roma il prossimo 7 di ottobre alle 9.30 del mattino in Confindustria, un appuntamento promosso da AssoKnowledge, dal gruppo Filiera, di cui appunto Montanari è presidente, ovvero TIA, tecnologie per l'identificazione automatica. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con la nostra redazione: 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito web www.radio24.it, nelle pagine di 2024, oppure inviateci una email. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.